Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Nona unità. Che giornata. Dialogo. Una giornata faticosa. Ah, finalmente in pace. Sono stanchissima. La notte scorsa ho dormito poco e stamattina ho fatto fatica ad alzarmi. Ma sei andata lo stesso a lavorare? Per forza. Ma sono arrivata tardissimo, quasi alle 10. Hai avuto qualche problema con il capo? No, nessuno. Appena mi ha visto, ha capito e non ha detto niente. Non mi hai detto perché sei arrivata in ritardo. Che ti è successo? Niente, la macchina non è partita. Perciò ho dovuto chiamare un tassì. Povera te, come sei riuscita a trovarlo a quell'ora? Infatti sono rimasta ad aspettare per strada quasi 20 minuti. Con quel freddo, perché non mi hai telefonato? Beh, ci ho pensato, ma non ho voluto disturbarti. Sei stata sciocca a fare complimenti. Ho una fame, ho mangiato solo un panino al bar. Ti hai preparato di buono per cena? Niente di speciale, ma se hai fame non c'è problema. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Ah, finalmente in pace. Sono stanchissima. La notte scorsa ho dormito poco e stamattina ho fatto fatica ad alzarmi. Ma sei andata lo stesso a lavorare? Per forza, ma sono arrivata tardissimo, quasi alle 10. Hai avuto qualche problema con il capo? No, nessuno. Appena mi ha visto, ha capito e non ha detto niente. Non mi hai detto perché sei arrivata in ritardo. Che ti è successo? Niente. La macchina non è partita. Perciò ho dovuto chiamare un tassì. Povera te. Come sei riuscita a trovarlo a quell'ora? Infatti, sono rimasta ad aspettare per strada quasi 20 minuti. Con quel freddo, perché non mi hai telefonato? Beh, ci ho pensato, ma non ho voluto disturbarti. Sei stata sciocca a fare complimenti. Ho una fame. Ho mangiato solo un panino al bar. Che hai preparato di buono per cena? Niente di speciale, ma se hai fame, non c'è problema. Vocaboli, pagina 225. Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, pettinarsi, vestirsi. Vocaboli, pagina 226. Fare colazione. Aspettare l'autobus. Giocare a tennis. Saltare il pasto. Perdere l'autobus. Dormire. Incontrare. Vocaboli, pagina 228. Partire. Uscire. Tornare. Andare al cinema. Restare a casa. Vocaboli, pagine 232 e 233. Nervoso, calmo, povero, ricco, giovane, vecchio, grassa, magra, bella, brutta, stanco. Nona unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 21. Una serata diversa dal solito. Perché sei tornata così tardi ieri sera? Ti ho telefonato alle 10 e non ha risposto nessuno. Infatti, sono rimasta fuori fino a mezzanotte. Posso chiederti dove sei stata? Niente. Quando sono uscita dall'ufficio, ho incontrato per caso Maria e Sergio e sono andata in giro con loro. E poi? Poi abbiamo deciso di andare a cena da qualche parte. Che ristorante avete scelto? Lo conosci. Ci siamo state una volta e abbiamo mangiato bene. Ho capito. È La Bocca Mia. Avete mangiato bene anche questa volta? Benissimo, e non abbiamo speso molto. Peccato che non sei venuta anche tu. Esercizio 22. Il riposo è tutto. Ti vedo un po' stanca. Hai dormito poco? Sì, meno del solito. Sono andata a letto a mezzanotte e mi sono alzata alle 6:30. Perché tanto presto? Alle 6:20 ho sentito un rumore e mi sono svegliata. Ho provato a dormire ancora, ma non ci sono riuscita. E allora che hai fatto? Prima di tutto ho preso il caffè. Poi ho fatto la doccia e mi sono lavata i capelli. Ho finito alle 7:15, mi sono vestita in fretta e alle 7:30 sono uscita di casa. Tu invece sei freschissimo. Infatti sono andato a letto alle 11 e mi sono alzato alle 7:30. Beato te, hai dormito più di 8 ore. Sì, e poi ho fatto un lungo bagno rilassante. Dalle 8:15 alle 8:10. Che bello, ecco perché hai un aspetto riposato. Ho fatto tutto con calma e sono arrivato in ufficio con un po' di ritardo, alle 9:10. Per una volta non è un problema. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 242. Scusatemi per il ritardo. Non è la prima volta che ci fai aspettare. Non sei mai puntuale. Ho dovuto aspettare un cliente importante e non sono potuto venire prima. Ma perché non hai almeno telefonato per avvisarci del ritardo? L'ho fatto, vi ho telefonato, ma non ha risposto nessuno. A che ora hai chiamato? Alle 6:15. In effetti siamo uscite qualche minuto prima delle 6. Perché così presto? Perché verso le 5 è passato a salutarci Francesco e gli abbiamo chiesto un passaggio fin qui. Così non abbiamo dovuto prendere 2 mezzi. Francesco, quanto tempo è che non lo vedo? È appena tornato da un viaggio in Brasile.